Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Questa mattina torniamo ad occuparci del bilancio delle famiglie italiane, affrontandolo da uno dei suoi aspetti più concreti e forse il più essenziale. La spesa alimentare, che con i suoi aumenti di prezzo, oltre ad essere un indicatore della crisi in atto, è per forza di cose un elemento che può modificare radicalmente le scelte e le abitudini di consumo. Gli ultimi dati dell'Istat, ne abbiamo parlato tanto nelle scorse giornate, non portano certo buone notizie. E per voi che ci ascoltate non saranno che la conferma di una realtà già sperimentata giorno dopo giorno al supermercato, al mercato rionale o dal negoziante di fiducia. A febbraio sono ancora cresciuti i prezzi di molti dei prodotti più acquistati dagli italiani. Al primo posto della lista nera ci sono proprio gli alimentari e in particolare i vegetali, le verdure, complici anche il maltempo che ha imperversato a febbraio e l'aumento dei carburanti che è senza sosta perché ormai siamo a ridosso dei 2 euro. Un duro colpo per il consumatore che, nonostante siano le spese primarie per la nostra quotidianità, ha iniziato a ridurre i consumi anche in questo ambito. Segnale davvero preoccupante, una situazione che si era già ripresentata, manifestata, lo ricorderete bene perché a questo tema dedicammo tante puntate di Salva Danaio anche a cavallo del 2008 e del 2009, quando a causa della bancarotta di Lehman Brothers, il crollo dei mercati e la fiammata dei prezzi del petrolio, appunto anche in quel caso, come ricorderete, l'inflazione era volata alle stelle, anche se in quel periodo volò sopra il 4%, e questo appunto comportò molte scelte di consumo differenziate appunto per le famiglie italiane. Allora, visto che questa situazione si ripropone anche ora, come reagire a questa situazione? Ne parliamo questa mattina cercando di capire quali sono le vostre principali preoccupazioni da questo punto di vista, le vostre nuove abitudini messe in atto per risparmiare al supermercato quando fate la spesa senza dover fare troppe rinunce, visto che già ne facciamo tante. 800 24 00 24, il numero verde che vi permetterà anche questa mattina di interagire con noi, di raccontarci la vostra quotidianità con il carrello della spesa. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Ci potete anche scrivere a salvadanaio@radio24.it, ci potete anche scrivere su Facebook, il nostro profilo ha l'indirizzo salvadanaio-radio24. Già questa mattina, anticipando il tema, qualche commento di qualche ascoltatore era arrivato. Alberto ci aveva scritto: lasciato da parte i grossi supermercati, io li faccio i nomi, tanto li conosciamo tutti, tipo S Lunga, Carrefour e Auchan, troppo cari, dice, per discount tipo Eurospin, dove mangi buoni prodotti e la spesa costa anche il 40% in meno, quindi c'è chi comincia a privilegiare in maniera molto netta gli hard discount. Daniela ci scrive: a me non è cambiato nulla, quello che dobbiamo prendere lo prendiamo appunto quando facciamo la spesa. Io ho due genitori di 80-90 anni con le loro abitudini, certo, quindi per loro non si possono fare radicali cambiamenti, come quando per esempio nei nuclei familiari ci sono bambini piccoli, si paga di più quello che c'è da pagare, anche se devo dire che lei sostiene all'S Lunga per esempio i prezzi sono sempre buoni e spesso ci sono offerte vantaggiose. Andremo a caccia di offerte questa mattina con un portale che si occupa proprio di questo, allora io vi comincio a presentare i nostri ospiti, poi vi racconto anche quello che succede oggi in borsa. Luciano Mazzone, amministratore delegato di Cliccapromo, buongiorno. Buongiorno, ci a tutti. Sente? Un sito internet di cui abbiamo parlato tante volte anche in passato, che permette ai consumatori di consultare in maniera gratuita le offerte promozionali di diverse catene di grande distribuzione. Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare, buongiorno dottor Rossi. Daniele, sì, non ci sente, probabilmente, vabbè, non importa, speriamo, non mi sembra abbia detto delle parolacce, assolutamente no. Gian Domenico Consalvo, componente della giunta di Confagricoltura, buongiorno dottor Consalvo. Buongiorno a voi. Eccoci qua allora, la borsa questa mattina tenta un recupero dopo i cali vistosissimi di ieri, che sono stati esasperati dalle rinnovate preoccupazioni per una possibile bancarotta della Grecia. Qua ormai abbiamo l'andi rivieni di queste indiscrezioni che appunto continuano a farci tornare appunto la nostra attenzione la possibilità che questo paese possa essere lasciato fallire. Entro domani sapremo quanti investitori internazionali hanno a aderito alla proposta di Concambio sui vecchi bond. Questo piano di ristrutturazione deve funzionare appunto per larga parte, altrimenti scatteranno le cosiddette clausole di azione collettiva, appunto secondo le quali il governo greco farà aderire obbligatoriamente tutti gli investitori appunto a questo piano di ristrutturazione, ma si deve raggiungere almeno oltre l'80% di adesione internazionale. Ci sono molti investitori italiani, ma anche altri che conosciamo, per esempio Generali ha fatto sapere che aderiranno all'operazione di swap sul debito greco, lo hanno fatto sapere anche altri investitori, altre compagnie di assicurazioni, altre banche europee. Comunque, insomma, entro venerdì sapremo la percentuale. In attesa di questo, questa mattina un comunicato diffuso da Borsa Italiana ha fatto sapere che i prestiti obbligazionari della Repubblica Ellenica sono sospesi dalle negoziazioni a tempo indeterminato, appunto questo in vista della scadenza del Concambio sui bond, sulle obbligazioni greche sottoposte a ristrutturazione. Milano sta guadagnando lo 0,8%, stanno riprendendo quota dopo averla persa tanto ieri i titoli bancari: Banco Popolare più 6, Monte dei Paschi più 4, Banca Popolare di Milano più 4, Salvatore Ferragamo più 3,5, Prismian più 3,10, Azimut più 2,51. Abbiamo invece un calo di mezzo punto su Terna ed Eni. Campari perde lo 0,8 e nel meno 0,33%. Lo spread stamattina era ritornato sopra 330 punti base, adesso è sceso leggermente al di sotto, ma ha ricominciato a risalire la china, situazione che non ci piace perché il rendimento del titolo decennale sul mercato secondario è ritornato sopra il 5%, sono quei livelli di disturbo dai quali vorremmo scrollarci, ma alla crisi greca appunto ci ha riportato un po' di tensione anche sui nostri titoli. Detto questo, noi parliamo di un'altra tensione, quella che così abbiamo quando varchiamo la porta del supermercato, andiamo a fare la spesa magari per tutta la settimana, magari appunto per tutta la famiglia, 3, 4, 5 persone da accontentare, e insomma questo carrello della spesa comincia ad essere pesante, perché come sapete abbiamo avuto gli ultimi dati sull'inflazione di febbraio che ci hanno confermato un andamento piuttosto alto per l'indice dei prezzi al consumo al 3,3%. Sulla base di questo dato di febbraio l'inflazione acquisita già per il 2012 è già arrivata all'1,9%, ma praticamente ci sono proprio particolarmente alcuni articoli che stanno cominciando letteralmente a spingere, a volare. Sono soprattutto i carburanti che continuano a far girare il motore dell'inflazione, chiaramente con i carburanti sempre verso l'alto significa che i trasporti costano di più e significa anche che appunto far transitare, trasportare i beni e i generi alimentari, portarli al supermercato, può sembrare un discorso molto banale, appunto costa di più, e di conseguenza questi aumentati costi si trasferiscono anche sui prezzi finali praticati al consumatore. Vorrei cominciare con Daniele Rossi, direttore generale di Federalimentare. Ci serve adesso? Niente, non riusciamo a pescarla, abbiamo qualche problema appunto con questo collegamento telefonico. Andiamo allora a quelli che vengono considerati appunto i generi alimentari che hanno avuto i rincari più alti. Gian Domenico Consalvo di Confagricoltura, quanti danni vi ha provocato la recente ondata di maltempo e anche la fiammata appunto sui prezzi dei carburanti, e quindi come state conteggiando il trasferimento di questi oneri aumentati anche per voi sulle tasche dei consumatori? Vabbè, sotto gli occhi di tutti i danni all'agricoltura in quest'ultimo mese, sicuramente anche messo insieme con lo sciopero dei trasportatori qualche settimana prima e poi adesso con questi continui rincari dal punto di vista del costo della benzina. Però sicuramente noi da questo punto di vista vorremmo fare è importante fare un ragionamento legato anche alla educazione alimentare che dobbiamo cominciare a dare. Cioè, in buona sostanza è giusto che finalmente si cominci a capire, si educhi il consumatore anche a livello di stagionalità, no? Che potrebbe essere anche un modo per difendersi da questi costi alti. Cioè, infatti, mangiare una fragola probabilmente a dicembre o la zucchina famosa di febbraio, perché la famosa zucchina che per tanti anni ci ha condizionato tutta la comunicazione, probabilmente da questo punto di vista forse la zucchina si mangia come sempre, come si è sempre mangiata come dicevano i nostri nonni, da maggio, giugno in poi, mangiarla a dicembre forse non era ancora il caso. Cioè, quindi dal punto di vista non è forse una nuova educazione, dobbiamo tornare alle vecchie abitudini che sicuramente portavano a una stagionalità e quindi probabilmente a una discorso più economico. Certo, andiamo allora ai prodotti di stagione, dottor Consalvo. Questi che tipo di impatto hanno avuto nei prezzi finali praticati appunto al consumatore? Lei è chiaro che guarda un po' a quello che succede tra i produttori, ma appunto hanno dovuto in qualche maniera anche aumentare loro i costi da applicare a chi poi viene a prendere questi beni e li porta al supermercato? Il prodotto di stagione, che in questo momento gli ortaggi, in particolare a foglia, cioè le scarole, i cavolfiori, sono prodotti che sono stati sicuramente danneggiati da questi grossi freddi, quindi chiaramente dal punto di vista qualitativo possiamo avere dei piccoli danni da freddo che non influiscono assolutamente alla qualità nella dal punto di vista organolettico del prodotto, ma sicuramente dal punto di visivo sì. Quindi sicuramente lo scarto in campagna è stato maggiore e quindi di conseguenza la produttività è stata minore. Poi dal punto di vista dei costi di trasporti, guardi, è una storia vecchia. Portare un chilo di pomodoro o un chilo di scarola dalla Sicilia alle tavole del nord Italia costa, ma costa ancora di più spesso portare aria, perché non dimentichiamoci che i camion spesso non sono completamente pieni, perché la logistica e le esigenze della distribuzione sono tali da dover anche trasferire pochi chili di prodotti con dei camion anche molto, molto grandi. Quindi da questo punto di vista manca sicuramente una distribuzione, una logistica, una catena del freddo che garantisce sicuramente un'ottimizzazione dei trasporti. Certo, questi sono i problemi che sono di varia natura legati appunto alla questione della filiera, che è lunghissima e nel corso del suo percorso appunto ci presenta tutti questi aspetti che il dottor Consalvo ci stava indicando. Intanto stavo cercando anche di capire i nostri ascoltatori che tipo di percezione hanno rispetto al problema complessivo che stiamo analizzando. C'è qualcuno che naturalmente si lamenta del fatto che l'inasprimento fiscale che ci tocca subire, che ci toccherà subire anche prossimamente, appunto, ci farà far sacrifici sempre più importanti anche al supermercato. Qualcuno chiaramente si lamenta moltissimo della benzina. Noi magari vorremmo toccare questo argomento esclusivamente da solo a Salvadanaio, magari ci ritorneremo la prossima settimana. Un ascoltatore, Gianpietro, ci racconta: per fortuna ho un pezzo di terra e riesco a fare l'orto e anche piante da frutto, per cui frutta e verdura non le compro, questo è un grosso risparmio. Gian Pietro, lei è sicuramente una persona fortunata perché ha anche la disponibilità di spazio e di terreno per poterlo fare, anche di tempo ci metto perché non è una sciocchezza, però non tutti possono farlo e c'è chi necessariamente per questioni di lavoro deve per forza andare al supermercato, magari ricavare il sabato appunto come giornata di tempo per andare ai famosi farmer market, al mercato appunto del contadino, per approvvigionarsi di frutta e verdura di stagione a prezzi ragionevoli. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Sale la febbre dei prezzi, cresce il malessere delle famiglie italiane, i carburanti continuano a far girare il motore dell'inflazione, la benzina è arrivata al più 18,7%, il gasolio è più 25,4% nell'ultima rilevazione Istat di febbraio. Preoccupano molto però anche i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza, dal cibo ai tabacchi al quotidiano, che su base annua hanno segnato un balzo del 4,5%, con punte del 14,7% per la tazzina del caffè. Questo è il quadro di febbraio che noi stiamo commentando questa mattina insieme a voi, dai quali vorrei qualche testimonianza, ce ne sono già alcune pronte, su come componete adesso il vostro carrello della spesa, quanto vi sta condizionando nelle scelte questo rincaro generalizzato dei prezzi. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Filippo Ferrua Magliani, presidente di Federalimentare. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, secondo Federalimentare, nel 2011 sono calate le quantità acquistate dalle famiglie: meno carne bovina, meno 0,1%, meno pasta, carne di maiale e salumi. Ho trovato questo vostra appunto rilevazione che chiaramente era a corredare e a commentare i dati sull'inflazione di febbraio. Presidente, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che la crisi che stiamo attraversando è talmente grave che ha colpito duramente anche un settore tipicamente anticiclico come quello alimentare, ma che vede invece le famiglie dei nostri consumatori orientarsi sempre più a consumare di meno e a consumare nei prodotti a minor costo, e quindi molte volte anche sacrificando la qualità al prezzo. Questa è la situazione. So che voi guardate guardate anche con grande attenzione all'evoluzione dell'inasprimento fiscale in corso e quello che arriverà, perché chiaramente è soprattutto, tra le altre cose, l'IVA, che l'aumento dell'IVA che è partito appunto il 17 settembre, che ha colpito molti generi alimentari, siccome adesso potrebbe esserci il nuovo aumento appunto tra settembre e ottobre, chiaramente le cose non dovrebbero migliorare particolarmente. Questo è quello che si preoccupa maggiormente, perché c'era stata una apertura del Presidente del Consiglio Monti che sembrava dar luogo alla possibilità di un ripensamento in funzione dell'introito dell'evasione fiscale, ma mi dicono che ieri sera il sottosegretario Grilli in una trasmissione televisiva invece ha confermato la necessità di operare questo aumento. Questo aumento sarà una mazzata per i consumatori, perché vale 3 miliardi di euro e interverrà sia sull'aliquota del 10% che su quella del 21%. Noi stimiamo quindi appunto questo aggravio per i consumatori e anche un'ulteriore riduzione dei consumi e quindi anche una difficoltà per le imprese. Che tipo di riflessione ha fatto l'industria del settore alimentare, Presidente, per poter affrontare questa situazione che comunque non si può scaricare interamente sulle famiglie dei consumatori? Questo è il punto. La produzione alimentare sta scendendo, è scesa nel 2011, scenderà appunto nel 2012. L'unica valvola di sfogo per noi è l'esportazione, quindi il sistema alimentare dovrà attrezzarsi per incrementare ulteriormente questo canale di sfogo. Presidente, stavo guardando tra i singoli generi alimentari che hanno registrato il calo, l'aumento di prezzo più significativo. Vedo un più 7% del burro, più 6% della farina, più 6% del riso. Come mai questi generi alimentari in particolar modo hanno avuto questi rincari così consistenti? Ma questi che ha citato lei sono rincari che sono dovuti in gran parte però all'oscillazione che abbiamo avuto nel prezzo delle materie prime. Ci sono state oscillazioni che sono arrivate addirittura anche al 50% e quindi sono tutti degli aumenti che riflettono aumenti delle materie prime anche ancora dell'anno scorso. Benissimo, allora io vi faccio sentire adesso alcune testimonianze dei nostri ascoltatori e poi le commenterò insieme a voi. Chiedo ancora un minutino di pazienza a Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo, che invece ci darà qualche indicazione pratica per poter individuare il supermercato più vicino a casa nostra, dove possiamo fare la spesa come se fosse una festa, insomma, dove c'è veramente serenità a compiere questa operazione che tutte le settimane tutte le famiglie devono fare, anche se per la verità tra gli ascoltatori che ci scrivono c'è chi suggerisce proprio intanto di farla frequentemente la spesa, perché per esempio si possono cogliere delle occasioni dei cosiddetti prodotti a scadenza imminente che vengono messi sui banconi dei supermercati, chiaramente a prezzi ridottissimi, quando invece ci riduciamo ovviamente il sabato a far la spesa magari per una decina di giorni, magari li riempiamo in maniera un po' più indiscriminata il carrello con un po' meno di attenzione. Questa potrebbe essere una ricetta, ma io ribadisco sempre, per chi ha tempo, e il tempo pure è denaro, chi ce l'ha. Allora, Cristina da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, sono io quella che ha suggerito di recarsi. Anche lei, sì, guardi, molti altri hanno scritto, sì. Ecco. Sì, perché guardi, vabbè, io ho la fortuna di avere due supermercati sotto casa pur abitando in centro a Milano e la differenza è nettissima, perché per esempio la pasta viene messa in salvo spesso e io la compro solo pasta poi di marca, non la pasta dei supermercati, parlo di Riel, parlo di Le Cecco, parlo insomma di buoni marchi, e viene messa in scontata e quindi io la compro solo così. Quindi al supermercato compro solo i generi, anche pochi generi alimentari, cioè non frutta e verdura, no, solo al mercato rionale dove posso farmi fare sconti dalla tratta, negozia, Cristina, anche con il rive. Sì, certo. Ma io guardi, io mi fermo ogni settimana, il mercato rionale settimanale, e compro 50 euro di frutta e verdura alla settimana. Quanto ci va avanti, Cristina? Quanto è grande il suo nucleo familiare? No, siamo in due. Beh, 50 euro di frutta e verdura. Io sono una divoratrice di frutta e verdura, mangio frutta tipo 4-5 tipi di frutta al giorno e verdura 3 tipi di verdura. Allora, quindi la mia spesa è fissa, però, e se costa di più e quindi non posso permettermi 3 tipi di verdura, ne prenderò solo 2. Certo, Cristina, mi scusi, però le volevo chiedere, questo suo comportamento così virtuoso con il carrello della spesa è stato esasperato in tempi recenti a causa di tutto quello che sentiamo dire sulla crisi, i prezzi che aumentano? Ovunque, comunque, lei si è sempre comportata in questa maniera così oculata? Oppure spendeva un po' di più senza guardare i prezzi, ecco? No, guardi, non vorrei vantarmi, ma mi sono sempre comportata così. E la cosa che adesso devo dire è che se adesso non posso più permettermi 50 euro alla settimana di frutta e verdura, vuol dire che ne metto in budget 40. Uh-huh. E quello che invece adesso diventa veramente seccante sono gli aumenti di beni su cui non possiamo decidere se acquistare o meno. Allora, la benzina, io non posso decidere che ci metto acqua nel serbatoio. Certo. E quindi questo è veramente esasperante. Perché è inutile che continuiamo a dire che dobbiamo andare in giro con i mezzi, ecco, però non per tutti è possibile, magari per va bene. Sono i consumi che non possiamo comprimere, gli incomprimibili, quelli qualche volta sono definiti anche in questa maniera. Cristina, grazie molte per i suoi suggerimenti. Andrei a Francesca dalla provincia di Brescia, perché poi il punto di vista femminile su queste questioni ci piace sempre particolarmente. Francesca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, anch'io acquisto prodotti solo a scadenza. Mm-hmm. Tutte le mattine accompagno la bimba a scuola alle 8, alle 8:05 sono davanti al supermercato appena apre, ho i primi prodotti che scadono il giorno dopo e in base a quello organizzo il pranzo e la cena. Quindi tipo che cosa, Francesca? Perché adesso a me vengono in mente per esempio gli yogurt, no? Però non è che uno può nutrirsi solo di quelli, che cos'altro compra? I raviolini, la pasta fresca, le tagliatelle fresche. Le cotolettine, la crescenza, formaggio grattugiato, le uova, e in base a quello organizzo la giornata. Dopodiché alla cassa di più supermercati qui nella mia zona trovo le confezioni rovinate, di pasta di marca, le merendine per i bambini e quant'altro. Sì, che sono banalmente rotte solo nelle confezioni, ma ovviamente il contenuto è totalmente integro e buono. Il contenuto non è scaduto e magari, come nel caso delle briochine o dei cracker, sono confezionati singolarmente, solamente l'involucro esterno che è rovinato, e quindi acquisto tutto al 50%, Francesca, frequentando il supermercato sotto casa e con prodotti di marca. Francesca, lei ha detto una cosa fondamentale: però accompagna la bambina a scuola tutte le mattine a tempo di dedicare una mezz'ora appunto anche alla scelta dei prodotti più convenienti. Le sue amiche che invece devono fare la spesona settimanale, come si comportano? Esatto, il sabato pomeriggio 2-3 centri commerciali passano tutta la giornata con i bambini disperati che strillano nei carrelli, e in base ai volantini che ci troviamo nelle cassette della posta girano i centri commerciali. Io fortunatamente 8:15, 8:20 rientro in casa e poi inizio la mia giornata lavorativa e riesco a organizzarmi giorno per giorno. Francesca, grazie molte per anche a lei per i suoi suggerimenti. Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo. Francesca ha citato la parola magica, volantini, no? Quelli che voi mettete tutti quanti insieme nel vostro portale, che nella sostanza mette a confronto le migliori offerte dei centri commerciali di tutta Italia, della grande distribuzione. Le chiedo intanto, alla luce dell'andamento dei prezzi recenti che abbiamo indicato prima, che l'Istat appunto certifica ogni mese, quali sono i prodotti che più facilmente anche le grandi marche commerciali appunto possono mettere sul mercato con degli sconti importanti, perché magari qualcuno non ne vediamo mai a sconto? Vedo che invece il caffè, per esempio, secondo le vostre rilevazioni può essere messo sul banco del supermercato anche con degli sconti molto importanti, anche abbastanza frequentemente. Assolutamente, confermo quanto detto. Tutti i prodotti alimentari di prima necessità principali si trovano frequentemente o costantemente in offerta. E, prima ascoltavo con interesse il parere di due consumatrici esperte che suggerivano di comprare i prodotti a scadenza. In realtà il mio suggerimento è senza dover ricorrere a questo comportamento estremo e di dover andare al supermercato tutti i giorni, una spesa ben organizzata, e noi col nostro sito cliccapromo.it, anche con la nostra app, cerchiamo esattamente di aiutare in questo, è possibile acquistare tranquillamente le proprie marche, i propri prodotti al 40-50% in meno del prezzo pieno. Se devo fare un esempio, oggi a Milano si trovano in tutte le catene che noi recensiamo sul nostro sito degli oli extravergini di oliva di marca in promozione, in forte sconto, al di sotto dei 3 euro al litro, quindi con possibilità di risparmio veramente molto molto consistenti. Certo. Mazzone, quali sono i generi alimentari per le quali le famiglie italiane esasperano la ricerca di risparmio? Ma sicuramente tutti quelli di grande importo unitario. Noi osserviamo sul nostro sito ricerche molto forti sul pannolino, sul detersivo, sullo stesso olio piuttosto che non sul parmigiano, perché sono articoli dove il costo per comprarli è decisamente elevato. Ma non so, potrei citare anche il tonno o altre categorie di questo genere. L'olio d'oliva che ha citato prima, appunto, che sicuramente è un articolo appunto che non costa poco, poi ci piace naturalmente quello buono, quindi non ci accontentiamo neanche di una marca di qualità scadente, a patto che ce ne siano, perché ormai non voglio neanche fare un commento di questo tipo, perché i nostri prodotti sono sempre sicuramente buoni, poi possono essere di gradazioni di qualità diverse, ma sicuramente troviamo sui nostri supermercati appunto la miglior qualità, soprattutto per quello che riguarda l'olio d'oliva ed altri prodotti. Allora, c'è qualche ascoltatore che lo stesso così ha fatto un po' un commento sarcastico su quell'indicazione data dall'ascoltatrice precedente che ha tempo di andare al supermercato e magari di approfittare delle offerte su quei prodotti che hanno una scadenza imminente, che quindi il centro commerciale mette appunto in commercio a prezzi assolutamente ridotti. Io non ci vedo niente di strano. L'ascoltatore che ci scrive su Facebook dice: ci sono tantissime offerte sotto marca, come ci siamo ridotti, perché cercare prodotti che scadono il giorno dopo? Ma voglio dire, per quale motivo allora costringere il supermercato a buttare tutti questi prodotti? Meglio portarseli a casa a metà del prezzo. Quindi veramente sono riflessioni che io onestamente non capisco. Detto questo, andiamo ancora ad un paio di ascoltatori e poi sento Confagricoltura e Federalimentare. Allora, Leonardo da Livorno, anche lei pratica una strada della quale abbiamo parlato tante volte a Salvadanaio, che ormai sembra essere sempre più gettonata da molte famiglie. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, è il sistema dei gruppi di acquisto. Sono gruppi di persone che si riuniscono per fare degli acquisti collettivi, soprattutto di generi alimentari, e chiaramente questi acquisti vengono fatti direttamente dai produttori. Certamente. Quindi, Leonardo, siccome voglio sentire poi su questo aspetto il nostro rappresentante di Confagricoltura, per esempio andate a cercare la zucchina fuori stagione oppure andate insomma dall'agricoltore facendo incetta invece di chiaramente verdura di stagione, insomma che prezzi trovate, come negoziate anche? Allora, il prodotto fuori stagione è escluso a priori, perché ci si rivolge al produttore che certo, lui non ce l'ha giustamente. Posizione solo ho detto una sciocchezza, ovvio. I prodotti di stagione, quello che permette di contrattare sul prezzo cos'è? Senza tirare il collo al produttore chiaramente, ma è il fatto che noi garantiamo un acquisto continuato durante l'anno. E quindi lui riesce a fare a pianificare delle produzioni sapendo già che le avrà vendute e a dei prezzi comunque superiori a quelli a cui venderebbe per la grande distribuzione. Quindi si escludono chiaramente tutti gli intermediari che portano fino al supermercato. E infatti, no, tra l'altro Leonardo, una cosa interessante di questa esperienza, che è interessante, è un po' tutto il discorso che abbiamo fatto anche prima, come le mamme che dopo aver portato la bambina a scuola riescono la mattina a farsi un giro al supermercato a cercare le offerte migliori. Anche questa dell'organizzazione e della gestione del gruppo d'acquisto è un'impresa che richiede molto tempo, però insomma se il carrello della spesa diventa insostenibile bisogna trovarlo anche, no? Il tempo per fare queste cose. Voi come vi siete organizzati? Quante famiglie siete intanto? Di tanto tempo, ma io parlo per l'esperienza di un gruppo d'acquisto molto piccolo, perché siamo un paesino della Toscana, facciamo riferimento a 15 famiglie. 15 famiglie che riescono tranquillamente, diciamo occupandosi ognuno, ma poi non tutti, però più o meno ogni nucleo familiare si occupa di un prodotto, 15 prodotti che possono essere frutta e verdura, oppure verdura o solo frutta, formaggio, carne, insomma alla fine si fa un c'è una varietà di discreta. Certo. Leonardo, la ringrazio. Volevo sentire Gian Domenico Consalvo di Confagricoltura su queste iniziative praticate appunto da molte famiglie che cercano dei produttori, degli agricoltori, appunto per poter portare a casa ovviamente la verdura e la frutta di stagione, magari organizzandosi con più gruppi di famiglie appunto e cercando le offerte migliori, andando direttamente a negoziare con l'agricoltore. Insomma, sponsorizzate questo tipo di iniziative? No, assolutamente sì, sono iniziative assolutamente utili per fare economia all'interno di una famiglia e naturalmente tornare alla stagionalità dei prodotti, che sicuramente è assolutamente importante in questo periodo. Sicuramente uno si deve cominciare a accontentare o a capire che le zone di produzione possono garantire un prodotto per un certo periodo di tempo, perché non lo possono dare tutto l'anno, perché proprio per motivi proprio climatici non è possibile coltivare lo stesso prodotto per tutto l'anno. Quindi da questo punto di vista c'è da lavorare, come dicevo prima, con una corretta educazione alimentare, spiegando ai consumatori quali sono nelle varie aree di produzione i periodi di maturazione dei vari prodotti. Questo non è assolutamente un passaggio da poter fare. Certo, mi viene sempre da chiamarla presidente, lei è presidente di Confagricoltura, ma l'aumento dell'IVA al 23% che partirà da ottobre, voi come ritenete che ne subirete le conseguenze? Guardate anche voi questa circostanza con grande preoccupazione, come larga parte dell'industria, diciamo, alimentare a 360 gradi? Guardi, noi oltre l'IVA abbiamo l'IMU, che sicuramente sarà anche per l'agricoltore una mazzata, forse molto più forte di quella dell'IVA. Da questo punto di vista siamo sicuramente preoccupati, siamo tra virgolette terrorizzati di un giugno-luglio caldissimo da questo punto di vista, fino ad arrivare a ottobre col 23% di IVA. Sicuramente queste cose non contribuiscono a migliorare i consumi nella maniera più assoluta, quindi spesso si va un po' in controtendenza con le regole economiche, no? Invece di incentivare i consumi si vanno continuamente a ridursi. Gli agricoltori, anche quelli organizzati, con la riduzione della filiera, cioè riducendo i vari passaggi, facendo in modo che l'agricoltore si avvicini il più possibile al consumatore, è uno dei momenti e uno dei percorsi che sicuramente dobbiamo fare. Da questo punto di vista dobbiamo crescere tutti, sia l'agricoltore che deve capire le esigenze del consumatore, ma anche il consumatore che deve rendersi conto che l'agricoltura ha i suoi tempi, ha la sua stagionalità, e dobbiamo a questo punto adeguarci. Allora, io volevo sentire, stiamo già andando verso la chiusura, rapidamente Paola da Ferrara, se ce la fa. Paola, buongiorno. Buongiorno, volevo... Raccolgo la sua lamentela molto volentieri. Una domanda. Parlate sempre, spesso, di chilometro zero, di acquisti concentrati e via dicendo. E noi piccolini che... commercianti, giusto? Sì, cioè parlo di fruttivendoli, io ho un negozio di 50 metri quadrati, perciò vero, non è che... che siamo costretti allo studio di settore, che li prendiamo o che non li prendiamo, come facciamo? Paola, di che cosa si lamentano le famiglie quando vengono a fare la spesa, insomma? Le chiedono lo sconto, che cosa succede al suo negozio? Prima di tutto al mio negozio io ho una clientela ormai dai fissa. 70 ai 90, di conseguenza quando ne muore uno non ne rivedi mai più un altro. E poi qui intorno hanno fatto circa 100 appartamenti, non si vede un giovane, altro che al sabato pomeriggio, non so, chiedere la gelatina da mettere sulla crostata, roba di questo genere. Però io non parlo neanche per me, che ho 71 anni, ma per i giovani negozi, c'è anche della gente giovane che è dentro, va bene, che siamo costretti allo studio di settore, che io non mi sono adeguata, gliel'ho già detto un'altra volta, ho pagato 4.000 euro perché non era congrua, pensando che fra giorni me ne arrivi un'altra. Paola, io mi sento morire. Speriamo di no, speriamo di poter parlare nei prossimi mesi di questa situazione con condizione di maggior serenità. Purtroppo non sarà presto, però non lo so, noi guardiamo sempre, volendo, il bicchiere sempre mezzo pieno, anche se per molte famiglie adesso è difficile. Purtroppo non riesco a sentire. Presidente di Federalimentare, Farua Magliani, ci sente? 10 secondi, sì, di conclusione, magari ancora, sulla, sì, base degli stimoli che ha raccolto fino a questo momento, e se vuole anche ci dia un suggerimento per fare la spesa tranquilli, da buon padre di famiglia, se ritiene. Ma grazie, questo è un po' più difficile. Quello che invece si potrebbe cogliere da questa come conclusione è veramente un appello al governo: se le tasse le ha da messe, cerchi di metterne il meno possibile e non si inventi nuove tasse, come per esempio stanno parlando di mettere tasse sugli alimenti cosiddetti cattivi. Qui dovremmo passare dalla fase delle tasse alla fase del rilancio. Se ci fosse veramente questo rilancio economico, il consumatore avrebbe in tasca qualche soldo in più e il problema dei prezzi degli alimenti sarebbe automaticamente risolto. Grazie Presidente, speriamo che venga raccolto questo appello. A tutti, buona giornata, a domani.